Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Tempo di fare le valigie per gli Stati Uniti oggi per approfondire insieme le opportunità di studio accademico oltreoceano, ovviamente in un futuro a medio raggio, considerate le attuali pesantissime restrizioni in vigore che hanno ovviamente impatto anche sulla nostra trasmissione settimanale che continuiamo a realizzare in condizioni un po' di emergenza, diciamo pure così. Lo faremo oggi questo viaggio, lo condurremo con una giovane studentessa universitaria che ci ha contattato qualche tempo fa, raccontandoci la sua esperienza e offrendosi per regalarvi tanti imprescindibili consigli su come fare per rendere la vostra formazione davvero internazionale. Grazie a lei oggi voleremo fin negli Stati Uniti d'America. Non perdetevi il nostro appuntamento mensile con Francesca Barbieri e le sue preziosissime dritte sulle opportunità aperte all'estero grazie al suo osservatorio sempre operativo su bandi e calls internazionali. Torna oggi l'appuntamento con Eures Italia che vi aggiorna sempre su tutto quanto si muove sul fronte delle opportunità di lavoro in Europa. Anche per Eures Italia oggi una puntata un po' speciale, mentre a chiudere torneremo a parlarvi del programma Fulbright, il più importante schema di scambio universitario tra Italia e Stati Uniti, che ha da poco lanciato una che potrebbe risultarvi davvero molto ma molto utile. Tutto è pronto per proiettarci nel mondo dello studio oltreoceano. Riprendiamo allora, solo virtualmente, a volare. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce lo fornisce il portale facile.it che ha inviato nei giorni scorsi alcune informazioni pratiche in merito alla prenotazione dei viaggi studio ai tempi del coronavirus. Secondo il portale sono ben 280.000 i giovani che partono ogni anno per un soggiorno linguistico all'estero. Facile.it sconsiglia in ogni caso di sottoscrivere ora una polizza antiannullamento in quanto non sarebbe rimborsata per cause di forza maggiore. Chi avesse già acquistato una vacanza studio dovrebbe invece analizzare le condizioni contrattuali sottoscritte e verificare che vi sia o meno la possibilità di recedere senza dover pagare alcuna penale. Se questa possibilità non ci fosse, il secondo consiglio è rivolgersi direttamente alla società da cui è stato acquistato il viaggio per trovare una soluzione. In ogni caso, il consiglio principe adesso è aspettare l'evolversi della situazione e agire solo quando il quadro sarà più definito, così da evitare di perdere inutilmente denaro. Bene, è arrivato il momento di Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utili ad orientarvi nel mondo del lavoro e anche dei tirocini a livello internazionale, e tornano anche i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Sviluppare le capacità professionali attraverso formazione e lavoro in ambienti internazionali, con opportunità per laureandi e neolaureati, ma anche programmi aperti a matricole o riservati a profili qualificati con master e specializzazione post laurea. Sono le caratteristiche di tirocini e stage all'interno delle organizzazioni internazionali. Stiamo parlando delle Nazioni Unite oppure delle tante strutture dell'Unione Europea, fino alla NATO. Si tratta di esperienze che, unendo pratica e conoscenze teoriche, rappresentano il primo passo e consentono di accumulare il bagaglio di competenze necessario a proporsi per una successiva occupazione più o meno stabile nelle stesse organizzazioni internazionali. Requisito fondamentale per accedere a questi percorsi è la conoscenza a livello avanzato della lingua inglese e a volte viene richiesta anche una buona conoscenza del francese. Il numero di candidati ammessi e la durata del programma variano di caso in caso. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti web degli organismi internazionali, dai quali è possibile compilare i moduli e inviare il proprio curriculum. Ma concentriamoci sulle proposte delle varie organizzazioni dell'Unione Europea, posto che ora, in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del coronavirus, tutto è bloccato, ma si spera che in autunno i programmi di selezione che consentono a migliaia di giovani di entrare all'interno delle varie istituzioni dell'Unione Europea riprenderanno. La Commissione Europea, ad esempio, offre 1.900 tirocini retribuiti, diretti a laureati in possesso di almeno il titolo triennale. Requisito fondamentale è non aver avuto esperienza di lavoro di oltre 6 settimane in qualsiasi istituzione europea. avere una conoscenza avanzata a livello C1 o C2 di due lingue europee è il secondo requisito fondamentale. Per i traduttori, in particolare, è necessario saper tradurre nella propria lingua madre o da altre due lingue europee. La durata di questi tirocini è di 5 mesi e, se le cose verranno confermate, la prossima data d'inizio è il 1 ottobre per inviare la propria candidatura, con la partenza a febbraio del 2021. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, anch'essa offre tirocini retribuiti. I destinatari sono studenti che abbiano conseguito anche di recente una laurea almeno triennale, ma anche neolaureati magistrali. Requisiti anche in questo caso è quello di essere cittadini di uno dei paesi partner europei, una conoscenza approfondita della lingua inglese e di un'altra lingua europea e non avere oltre 12 mesi di esperienza professionale e non essere stato tirocinante per oltre 6 mesi. La durata di questi tirocini va dai 3 a 6 mesi. È possibile rinnovarli una sola volta per una durata complessiva di 12 mesi. Vi segnalo il sito della Banca Centrale Europea www.ecb.europa.eu che nella sezione Careers segnala tutte le opportunità. Infine, il Consiglio Europeo propone sia stage retribuiti sia stage non retribuiti. Destinatari sono i laureati almeno triennali e gli studenti dal terzo anno in poi degli studi universitari. Anche in questo caso è necessario dimostrare la conoscenza molto buona di almeno due lingue europee, una delle quali deve essere l'inglese o il francese a livello C. Tra le specializzazioni tenute maggiormente in considerazione, la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei ed economia. La durata di questi tirocini è di 5 mesi e la prossima, finestra utile è febbraio del 2021. Le candidature vanno presentate online in due tornate annue. I posti a disposizione sono più di 100. Da Toolbox alla testimonianza della settimana. La nostra testimone della settimana è una studentessa universitaria 21enne che ha scelto la città di Boston per svolgere il suo percorso accademico. Lo ha fatto in un settore molto specifico, quello delle neuroscienze. E oggi Lisa è qui per darvi qualche dritta importante. Buon pomeriggio, Lisa Brontesi. Buon pomeriggio. Allora, una carriera studentesca davvero internazionale la tua, iniziando con il quarto anno di liceo scientifico negli Stati Uniti. Quanto è stato fondamentale per darti la carica a studiare all'estero? Decisamente non è stato indispensabile, ma mi ha dato un grande vantaggio, in quanto ho dovuto navigare attraverso tutto il processo dell'application da sola, considerando il fatto che nessuno nel mio liceo ne fosse a conoscenza. Quindi è stato un grande aiuto. E questo è assolutamente anche importante da raccontare, proprio come a volte si debba fare molto da soli, però insomma occorre sempre osare. Perché hai deciso poi di iscriverti ad una università americana? Allora, innanzitutto in seguito al mio quarto anno all'estero mi sono innamorata della mentalità americana e dell'apertura mentale che generalmente ho trovato in America più che in Italia. Inoltre a questo sapevo che se fossi voluto andare alla scuola di medicina direttamente dopo il liceo in Italia avrei potuto solo studiare cose dal punto di vista accademico e non avrei avuto possibilità di esplorare per esempio della ricerca pratica, cosa che invece ho l'opportunità di fare qui in America facendo ricerca in un laboratorio di biologia molecolare. Quindi questo aspetto degli extracurricolari è sempre nell'ambito scientifico mi ha molto attratta. Ecco, attualmente raccontiamo subito dove ti trovi e cosa stai studiando. Mi trovo alla Boston University, nel centro della città di Boston, e sto studiando neuroscienze e chimica. Lisa, prima di iniziare a raccontare e a dare i tuoi utilissimi e preziosi consigli, però ti pongo subito una domanda su come si sta vivendo oltreoceano l'emergenza coronavirus. Insomma, sono giorni molto complicati. Come si vive a Boston, anche per voi espatriati? Siccome un terzo degli abitanti di Boston sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo e dell'America, tutte le università hanno chiesto agli studenti di lasciare il campus e di tornare a casa, con eccezioni chiaramente fatte per persone che non possono tornare a casa perché vengono da altri paesi al di fuori degli Stati Uniti, o persone che non hanno i mezzi economici per riuscire a tornare a casa. Quindi anche qua c'è la pratica del social distancing, per il quale bisogna stare 2 metri di distanza da tutti, la gente indossa mascherine, ma più che altro questa misura del chiedere agli studenti di rimanere a casa, anche questo è stato uno dei passi maggiori fatti a Boston per prevenire il contagio. E ora i tuoi preziosi consigli su come tentare la strada dello studio negli States. Partirei per cominciare da un'infarinatura sul sistema universitario americano. Come è strutturato, in sintesi? Allora, in seguito al liceo ci sono 4 anni di università, che si chiama undergraduate, nel quale praticamente si sceglie una laurea minore, diciamo, una laurea di concentrazione che si studia solo per i primi 4 anni. In seguito a quello si può poi andare a fare un programma di master, o nel caso di persone che vogliono poi entrare nei campi della medicina o andare alla dental school o della legge, ci sono altri percorsi attraverso i quali poi potrei entrare in questi generi di scuole. C'è anche la possibilità, dopo i primi 4 anni fatti nell'undergraduate school, di ottenere un dottorato di ricerca in qualsiasi ambito, in realtà. In una battuta, quanto tempo prima cominciare a muoversi per candidarsi a un posto nelle università americane? Il prima possibile è meglio, dato che le università americane sono molto attente alle attività extracurricolari, è utile iniziare a fare extracurricolari già all'inizio del liceo. Tuttavia, solo per l'application, iniziare al 4° anno di liceo è sufficiente. E dove guardare per farsi un'idea di dove si vuole andare? Ci sono dei siti web? Non ci sono siti web specifici, ma una ricerca su Google può dare molte informazioni riguardo a quali sono i migliori atenei per una specialità. Sì, onestamente, ricerche su Google e poi andare direttamente sui siti dell'università per informarsi meglio riguardo ai criteri di ammissione, per esempio, alla posizione, ai costi e a tutte quelle cose lì. E a livello di università, soprattutto nel tuo settore, parliamo di neuroscienze e chimica, quali atenei consigli, o in quali aree degli Stati Uniti? C'è solamente l'East Coast o ci sono anche altre zone interessanti? Ci sono centri per neuroscienze e chimica un po' in tutti gli Stati Uniti. La East Coast chiaramente ha molte scuole, molte buone scuole, specialmente a Boston. Ci sono le più famose come Harvard e MIT, ma anche Northeastern, Boston University, Boston College. Tuttavia ci sono diversi atenei anche nel sud, come la Duke University in North Carolina, o in California, University of California in Los Angeles. In realtà non è una cosa limitata all'area geografica, ma ci sono atenei attraverso tutti gli Stati Uniti. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Lisa Brontesi, studentessa universitaria 21enne in neuroscienze a Boston. Lisa ha scelto di prendere la strada diretta verso lo studio oltreoceano dopo aver completato le scuole superiori in Italia. A fare da detonatore per la sua decisione un anno di scambio oltre confine fin da giovanissima. E oggi è qui per spiegarvi passo passo come fare anche voi qualora vogliate tentare la strada di una formazione internazionale a stelle e strisce, ovviamente. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Come è strutturata un'application per candidarsi a un posto da studente in un ateneo americano? Ce la descrivi brevemente. Ci sono 5 parti diverse nell'application. Voglio iniziare dicendo che le application vengono mandate attraverso un sito che si chiama Common Application, e questo sito permette di guardare tutti i requisiti delle università che vengono selezionate, per esempio che tipi di test di ammissione sono necessari, se è necessario un test per la lingua inglese per gli studenti internazionali. Poi ci sono dei temi che bisogna mandare ad ogni università, le tracce dipendono dall'università, alcune sono molto generali, alcune sono a scelta. Poi ci sono almeno 2 lettere di raccomandazione che devono essere inviate dai docenti, e un resume che è praticamente un curriculum di una pagina, e questa è la ragione per cui prima ho specificato che le extracurricolari sono molto importanti. Sono da includere nel resume. E una volta che si viene accettati, cosa accade? Quali sono le tappe successive? Dopo essere accettati bisogna confermare con l'università che quella è l'università scelta, perché di solito la gente cerca di entrare in più università per assicurarsi di avere un posto in un'università o nell'altra. Bisogna far sapere all'università che si accetta di alla fine andare lì, e in seguito a quello l'università poi farà sapere agli studenti quali sono le tappe successive. E ora tu ormai studi da anni oltreoceano, ci spieghi molto in breve chiaramente, ma com'è la quotidianità della vita studentesca in termini di lezioni, esami? Le lezioni sono, dipendentemente dalle classi e da quando vengono offerte, alcune sono la mattina presto, altre sono la sera, anche fino alle 9. Quindi la mia routine cambia ogni semestre, dipendentemente dai tipi di lezioni che decido di seguire. Gli esami, alcuni sono la sera, abbiamo intorno ai 2-3 parziali ogni semestre, e poi degli esami cumulativi alla fine del semestre. È vero che le università americane sono molto più impostate sull'insegnamento pratico rispetto a quello teorico? Credo che questa sia una credenza comune in Italia riguardo all'università americana, ma non credo sia esattamente accurata. Il punto di vista pratico che viene sottolineato dalle università americane è più che altro relativo alle attività extracurricolari. I corsi sono piuttosto teorici, per alcune classi come chimica organica e biologia molecolare ci sono dei componenti di laboratorio per le classi, ma direi che la parte teorica è molto più importante rispetto a quella del laboratorio. Lisa, guardiamo anche alla vita pratica, i tuoi consigli in merito alla vita pratica. Studiando all'università si può contare su un alloggio studentesco? È normalmente costoso o economico? Dipende dall'università e dipende dall'area geografica in cui l'università si trova. Per esempio, essendo in un'università in una grande città come Boston o New York, chiaramente l'alloggio è piuttosto costoso, ma ogni studente universitario ha un alloggio garantito per 4 anni da parte dell'università, e il costo dell'alloggio di solito è incluso nella retta universitaria. Non abbiamo parlato prima di visti, quali visti richiedere per studiare negli Stati Uniti? Dipende dal percorso di studio che si vuole intraprendere. Se si vuole studiare negli Stati Uniti per tutti e 4 gli anni, che è quello che ho fatto io, occorre un visto F1, mentre per fare un Erasmus è necessario un J1. Per ottenerli, onestamente, l'università, appena viene accettato, ti manda tutte le pratiche e tutte le istruzioni per ottenere un visto, quindi una volta che si viene accettati è piuttosto semplice ottenerlo. È importante anche l'assicurazione sanitaria, oltre a ciò mai come in questo periodo è inclusa anche questa nel pacchetto universitario? Esattamente, viene inclusa nella retta. Io non mi sono mai preoccupata di ottenere una assicurazione sanitaria perché l'università si prende cura di tutto in questo campo. E allora Lisa, ringraziandoti per esserti messa a disposizione degli ascoltatori di Generazione Mobile e soprattutto per i tuoi consigli davvero puntuali, ti faccio un'ultima domanda, la nostra domanda di rito: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Decisamente bisogna essere esattamente a conoscenza dei tipi di offerte che vengono fatte per il proprio campo. Questo si può fare attraverso ricerche su Google o LinkedIn, che viene molto utilizzato dagli americani. Agli americani piace molto vedere un candidato che si mostra entusiasta. Dalla nostra testimone della settimana allo spazio della rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche Eures Italia sta adattando la sua rubrica al momento particolare che stiamo vivendo. Non vi parleremo quindi oggi di offerte di impiego aperte, come avviene solitamente, ma di un partenariato transfrontaliero che unisce Italia e Slovenia. Un progetto che ha effetti concreti e impatti concreti sui lavoratori in mobilità tra i confini, un settore particolarmente coinvolto dal problema della pandemia. Alessia Vetere di Eures Italia. Euradria è la partnership transfrontaliera che vede coinvolte le regioni confinanti di Italia e Slovenia, cofinanziata dalla Commissione Europea tramite fondi EASI Eures, rivolti allo sviluppo e al supporto della mobilità professionale in Europa. Euradria riguarda però in modo particolare il lavoro transfrontaliero. Ricordiamo brevemente, infatti, che lo status del lavoratore transfrontaliero è uno status di lavoratore mobile particolare. Il lavoratore transfrontaliero risiede infatti in uno stato, ma presta la propria attività professionale nel paese limitrofo, facendo rientro presso la propria residenza giornalmente o almeno una volta alla settimana. La partnership di Euradria vede un team composto da organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro di Italia e Slovenia, patronati, ma anche servizi pubblici per l'impiego dei due paesi confinanti. Le attività di Euradria si rivolgono in modo particolare dunque al superamento degli ostacoli alla mobilità professionale che interessano il transfrontalierato, ma anche alle attività di matching e reclutamento operative all'interno del mercato del lavoro transfrontaliero. In questi giorni la partnership di Euradria è particolarmente attiva a supporto dei propri utenti, quindi sia lavoratori ma anche imprese che hanno sede nella regione transfrontaliera, proprio nell'affrontare l'emergenza sanitaria. La partnership di Euradria sta lavorando in collaborazione con la Commissione Europea ed insieme agli altri partenariati transfrontalieri proprio per supportare l'attività della Commissione stessa nella creazione di un quadro di linee guida comune che possa essere adottato sull'intero territorio europeo. È per questo che sembra quanto mai opportuno riferirci proprio alle comunicazioni e ai documenti che la stessa Commissione ha emanato e reso pubblici nel corso degli ultimi giorni. Ricordiamo ancora una volta che tutta la documentazione può essere reperita all'interno del sito web ufficiale della Commissione Europea, Direzione Generale Lavoro, Affari Sociali ed Inclusione, ma anche in modo specifico per quello che riguarda il transfrontalierato all'interno del sito web della nostra partnership www.euradria.eu. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero, che oggi prosegue sul filone americano che caratterizza fortemente questa puntata. Torniamo a parlarvi dopo un po' di mesi del programma Fulbright, principale piattaforma di scambio studentesco per studiare negli Stati Uniti grazie ad importanti borse di studio. Oggi ci concentriamo sulla app sviluppata al fine di mettere in contatto i borsisti e gli alumni del programma. Ci spiega tutto Paola Sartorio, Executive Director della Commissione Fulbright. La app è nata per un'iniziativa a livello internazionale del programma Fulbright. Il programma Fulbright è presente in oltre 155 paesi del mondo e ogni anno sono migliaia sia gli americani che i cittadini di tutti questi paesi che partecipano al programma Fulbright, e quindi abbiamo sentito l'esigenza di avere uno strumento che potesse tenere insieme questa grandissima comunità. E quindi proprio il Dipartimento di Stato a Washington ha deciso di lanciare questa piattaforma che è disponibile anche come app per i cellulari o i tablet, a cui appunto possono accedere tutti coloro che hanno beneficiato di una borsa Fulbright oggi come anche in passato. Ci spiega i servizi che si possono trovare su questa app? Questa app, diciamo che si può un po' definire una via di mezzo tra Facebook e LinkedIn, cioè è uno strumento che favorisce l'interazione tra i borsisti o ex borsisti, e quindi è possibile per esempio indicare dove ci si trova, in modo che se ci sono altre persone nella stessa città o nelle vicinanze si può essere contattati. È un modo anche attraverso gli hashtag indicare per esempio i propri campi di studio, i propri interessi scientifici, quindi anche persone molto distanti tra loro, però se condividono uno stesso interesse scientifico possono trovarsi. È possibile anche inserire degli eventi, se questi eventi sono pubblici o comunque riservati ai borsisti, è possibile appunto inserire eventi, quindi è proprio una modalità per permettere a questa grande comunità di rimanere in contatto o entrare in contatto. Per maggiori informazioni potete scaricare l'app Fulbright dagli store online. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate anche di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da regalare? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto, un augurio di buona quarantena, ma soprattutto di buona Pasqua da Sergio Nava.